scusino anche loro. Io capisco, maestro, che lei vuole esibirsi la sua sinfonia e nessuno più di me creda può capire che in uno spettacolo lirico anche la musica abbia una certa importanza. Ma purtroppo noi non siamo ancora pronti, come sempre non siamo ancora pronti. Guardi come sono le nostre scene. E poi guardi, maestro, io non mi volto. Io sono sicuro che la prima donna non è ancora arrivata, perché la prima donna si chiama prima donna perché arriva sempre ultima. Prima donna, signora prima... Ecco, arrivo! Brava, con un puntuale ritardo. Sono in ritardo anche stasera, Ma non possiamo ancora incominciare, perché non c'è il suggeritore. Suggeritore! Dov'è il suggeritore? Vada a posto, per favore, vada a posto, vada. Ma vedo che là sono già venuti gli amabili, profumati, ammiratori delle nostre colombine e rosaure. Dopo, per favore, dopo, non è ancora il pubblico questo, non è ancora il nostro pubblico questo, il nostro pubblico verrà, speriamo, più tardi. E speriamo anche che paghi, perché da un po' di tempo in qua nel teatro lirico si è manifestato uno strano fenomeno. Quanto più pieno il teatro, tanto più vuota è la cassetta. E questo è terribile per noi, le nostre spese sono enormi. C'è per esempio la prima donna, è venuta da me ieri e dice: ma tutti quei meravigliosi fiori che i nostri ammiratori mi buttano dai palchi di proscenio, e chi li paga? Io? Dovete pagare voi, dice a me. E poi c'è Colombina che si lagna che non ha mai abbastanza pezzi per attoppare le bacche del suo arlecchino. E poi c'è il capitano Fracassa che spacca tutte le spade. Ecco. E poi c'è il dottor Balanzone che vuole sempre l'ultima edizione del codice. Ma lasciamo andare. Incominciamo il nostro lavoro, signori. Avete studiato il copione? No! Bravi. Sapete cosa dovete fare stasera? No! Bene, bravi. Beh, vuol dire che come al solito noi questa sera improvviseremo fra le quinte la nostra azione come nostro costume. In ogni modo vi faccio un'ultima raccomandazione. Ricordatevi che voi non siete uomini. No, siete maschere. Voi siete nati dalla fantasia del popolo, il quale vi ha creati come vi sentiva dentro di sé. Vi ha messo una maschera sul volto per rendervi anonimi e siete diventati eterni ed immortali. Perché vedete, quando la sala sarà piena, in ognuno di questi signori ci sarà dentro un arlecchino, un tartaglio, un brighello, un pantalone, una rosaria, una colombina. La nostra missione qual è? Quella di rendere viva, palpitante, reale questa fantasia del mondo. E adesso a noi cominciamo il nostro lavoro. Maestro, la prego, mi li accompagni. Cerchi di seguirli più che può, maestro. Come